ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge Akutagawa Ryunosuke. Il fazzoletto. Il professore Kinzo Hasegawa, ordinario nella facoltà di legge dell'Università di Tokyo, leggeva gli scritti di Strindberg sul teatro, seduto su una sedia di vimini in veranda. Precedentemente persino il De Profundis e le Intentions di Oscar Wilde avevano avuto l'onore di essere letti dal professore, e soltanto per una ragione: che gli studenti del liceo, di cui egli era anche preside, li leggevano volentieri. Trattandosi di un simile professore, non c'è niente di strano che il libro che egli leggeva parlasse degli attori e dei drammi dell'Europa moderna, anche perché tra i suoi studenti c'erano alcuni che scrivevano commenti su Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, e i più appassionati desideravano dedicare tutta la loro vita al teatro, seguendo le orme di questi drammaturghi moderni. Il professore, ogni volta che finiva di leggere un capitolo, posava sopra le ginocchia il libro dalla copertina di stoffa gialla e dava uno sguardo alla lanterna di carta di Gifu appesa in veranda. Allora, stranamente, di colpo, il suo pensiero si staccava da Strindberg e gli veniva in mente sua moglie, con la quale aveva acquistato la lanterna. Egli si era sposato in America durante un suo soggiorno di studio. Naturalmente sua moglie era americana, ma il suo amore per il Giappone e i giapponesi era tale quale quello di suo marito. Specialmente le piacevano molto gli oggetti d'arte giapponesi, fatti con estremo rigore. Così è più appropriato pensare che la lanterna appesa in veranda fosse una scelta di suo gusto piuttosto che di suo marito. Dunque il professore, ogni volta che deponeva il libro, pensava a sua moglie, alla lanterna e alla cultura giapponese simboleggiata da quella lanterna. Egli riteneva che la cultura giapponese da 50 anni a questa parte materialmente avesse fatto grandi passi in avanti, ma che spiritualmente non avesse migliorato in alcun modo. Anzi, sotto un certo punto di vista, essa si è degradata. In che modo dovrebbe reagire, e con urgenza, un intellettuale di oggi per salvarla da questo degrado? Solo con quel senso di cavalleria tipico del Giappone, dice lui con sicurezza. Questa cavalleria ha anche qualcosa in comune con lo spirito cristiano dei paesi europei. Limitare l'espansione dell'ideologia giapponese con questa cavalleria significherebbe non solo dedicarsi alla cultura giapponese, ma offrirebbe anche il vantaggio di stabilire un rapporto migliore di comprensione tra i popoli europei, americani, giapponesi. Partendo da questo principio, egli stesso cercava sempre di collocarsi come un ponte tra due continenti e due oceani. Quindi conciliare armonicamente nel suo pensiero sua moglie, la lanterna e la cultura giapponese simboleggiata dalla lanterna non era certo spiacevole per lui. Dopo aver più volte ripetuto quelle piacevoli pause, il professore si accorse che la sua mente non seguiva più Strindberg, anche se andava avanti nella lettura. Egli agitò leggermente il capo, un po' sdegnato con se stesso, e ricominciò a far scorrere i suoi occhi sui piccoli caratteri con maggiore attenzione. Il professore è uno che non ha niente in comune con l'arte, e in particolare con il teatro. Anche le rappresentazioni giapponesi che ha visto finora si contano sulle dita. Una volta, in un romanzo scritto da uno studente, apparve un nome, Baikou, ma egli, che credeva di avere ampie conoscenze, non capì quel nome. Perciò, quando gli capitò l'occasione, chiamò quello studente e glielo domandò: «Chi è Baikou?» «Baikou? Una volta era un attore stabile del teatro Teikoku di Maruno Uchi. Attualmente recita la parte di Misao nel dramma Decimo atto del Taikuki», gli rispose garbatamente lo studente, che portava una kama di cotone. Il professore non aveva neppure un'opinione personale sulle varie tecniche della regia scritte da Strindberg, e se lo interessavano, ma non tanto. Gli facevano soltanto ricordare qualche scena teatrale che egli aveva visto durante la sua permanenza all'estero per motivi di studio. Egli si comportava come un insegnante d'inglese di scuola media che legge Bernard Shaw per trovare un'espressione idiomatica. Tuttavia, sebbene il suo interesse fosse limitato, si trattava sempre di interesse. La lanterna pendeva dal soffitto della veranda, ma ci voleva ancora del tempo prima che venisse accesa. E su quella veranda il professor Kinzo Hasegawa leggeva la drammaturgia di Strindberg, seduto sulla sedia di vimini. Dalla mia descrizione penso che il lettore possa facilmente immaginare la scena, collocandola in un pomeriggio di una lunga giornata all'inizio d'estate. Però non vorrei assolutamente dire che egli leggesse quell'opera per ammazzare la noia. Se qualcuno lo pensasse, interpreterebbe cinicamente le mie intenzioni di autore. Il professore dovette lasciare Strindberg senza finire il capitolo, perché la lettura fu interrotta improvvisamente dalla serva che gli annunciò una visita. Deponendo il libro, gettò lo sguardo su un bigliettino da visita che la serva gli aveva appena lasciato. Sulla carta color avorio c'era scritto con tratto sottile Atsuko Nishiyama. Non gli sembrò di averla conosciuta prima, ma poiché egli conosceva molta gente, alzandosi dalla sedia di vimini, scorse mentalmente l'elenco dei nomi nella sua testa. Tuttavia, di questa persona non gli venne in mente neanche la faccia. Mise il bigliettino nel libro, che posò sulla sedia, poi di nuovo adocchiò la lanterna, lisciando, un po' ansioso, il kimono di seta. Poco dopo egli aprì la porta del salotto. Quando la sua mano lasciò la maniglia, nello stesso momento si alzò una signora di una quarantina d'anni che era seduta su una sedia. Vestiva in modo così raffinato da superare il giudizio che egli era in grado di dare sul suo abbigliamento. Un leggero kimono brucenere, una fibbia di giada tagliata a diamante e altre cose fini. I suoi capelli erano raccolti a marumaghe. Lo capì subito anche lui che non se ne intendeva tanto. Sembrava che ella fosse una madre molto saggia, col viso rotondo tipicamente giapponese e la pelle colore dell'ambra. Appena egli la vide, pensò d'averla già vista da qualche parte. «Sono Hasegawa», disse, e la salutò molto affabilmente, pensando che nel caso ella lo conoscesse sarebbe stato più semplice dirglielo. «Sono la madre di Kenichiro Nishiyama». Ella si presentò con voce ben chiara, restituendogli garbatamente il saluto. Il professore si ricordava di Kenichiro Nishiyama. Era uno di quegli studenti che scrivono i commenti su Ibsen e Strindberg, e pareva che la sua specialità fosse la grammatica tedesca. Costui, anche dopo essere entrato all'università, aveva continuato a frequentare il professore per discutere con lui di problemi filosofici. In quella primavera, siccome si era ammalato ed era stato ricoverato all'ospedale universitario, il professore era andato a trovarlo una o due volte quando il tempo glielo permetteva. La sua impressione, quando egli aveva pensato d'aver già visto il viso della signora, non era dunque tanto sbagliata, poiché quel giovane, florido, con i forti sopraccigli, e lei si assomigliavano sorprendentemente. Come due meloni, secondo il modo di dire giapponese. «Ah, lei è sua», disse il professore facendo cenno con il capo, indicandole una sedia al di là di un tavolino. «Prego, si accomodi». Ella prima si scusò della sua improvvisa visita e poi, salutandolo di nuovo in modo ossequioso, si sedette sulla sedia indicata da lui. Subito ella tirò fuori da una manica del suo kimono qualcosa di bianco. Sembrava un fazzoletto. Quando egli lo vide, pensando al caldo, immediatamente indicò uno dei ventagli coreani che si trovavano sul tavolino e si sedette di fronte alla signora. «È una bella casa», disse lei, e fece scorrere di proposito il suo sguardo intorno, nel salotto. «Ma no, è soltanto grande, ed è tenuta poco bene». Il professore, abituato a questo tipo di complimenti, spostò abilmente la conversazione su di lei mentre faceva sistemare dalla serva un tè freddo davanti all'ospite. «Come sta Nishiyama? È migliorata la sua salute?» Ella esitò e stette un attimo immobile. Le sue mani erano posate una sopra l'altra sulle ginocchia in modo composto. Riprendendo a parlare a bassa voce, disse con un tono calmo ed equilibrato: «Oggi sono venuta proprio a proposito di mio figlio. Non ce l'ha fatta a guarire. Volevo ringraziarla per lui, che aveva imparato molte cose da lei quando era uno dei suoi studenti». Il professore stava per bere il tè e osservò che ella non aveva preso ancora in mano la tazza per riservatezza davanti a una persona quasi sconosciuta. Gli parve meglio iniziare egli stesso a bere piuttosto che ripeterle di prendere il tè. Ma prima che la tazza arrivasse ai suoi soffici baffi, di colpo gli venne un dubbio causato dalle parole della signora. «Ma posso bere il tè o no?» Questo pensiero lo turbò per un attimo, e indipendentemente dalla morte del giovane. Tuttavia non poteva lasciare la tazza per aria. Ne beve d'un fiato a metà e disse: «Mi dispiace», con la voce un po' soffocata, aggrottando le sopracciglia. «Poiché quando si trovava all'ospedale mio figlio spesso parlava di lei, volevo informarla della disgrazia ed esprimerle nello stesso tempo la mia gratitudine per quanto ha fatto, pur sapendo di disturbarla». «Sono lusingato», disse posando la tazza e prendendo in mano un ventaglio di carta cerata blu. «Non ce l'ha fatta proprio all'inizio di... Siccome non ero andato a trovarlo da un po' di tempo, pensavo che fosse già guarito». «Quando è mancato di preciso?» «Ieri era il settimo giorno». «All'ospedale?» «Sì, veramente non me l'aspettavo». «Comunque tutto quello che si poteva fare per lui è stato fatto, perciò ora dovrei rassegnarmi, ma purtroppo chi lo ha cresciuto non può darsi pace facilmente». Mentre il professore le parlava, notò un fatto insolito. Né dall'atteggiamento né dal comportamento risultava minimamente che ella parlasse della morte di un figlio. Non si vedevano nemmeno lacrime nei suoi occhi. Anche la voce era composta. Ai due angoli della bocca si vedeva persino un sorriso. Se qualcuno l'avesse vista dall'esterno, senza sentire quello che veramente raccontava, avrebbe pensato che ella parlava di cose banali, di tutti i giorni. Per lui era un mistero. Si meravigliava di questa signora che non piangeva. Poi venne fuori un'altra scoperta. Mentre il racconto dell'ospite si spostava dai ricordi del giovane mancato ai particolari della sua vita e di nuovo stava per tornare ai suoi ricordi, successe che ad un tratto il ventaglio coreano gli sfuggì di mano e cadde sul parquet. La conversazione non era tanto urgente da non permettere un'interruzione. Egli, stando seduto, piegandosi in due, si sporse un po' in avanti e con il capo in giù stese la mano sul pavimento. Il ventaglio si trovava sotto il tavolino vicino ai piedi della signora, calzati da un paio di tabi bianchi infilati nelle pantofole. In quel momento gli capitò anche di vederle le mani posate sulle ginocchia che stringevano un fazzoletto. Se si fosse trattato solo di questo particolare non sarebbe stata una scoperta, ma le mani da lui viste tremavano violentemente. Al professore sembrò che ella cercasse di controllare la sua forte emozione interna, tormentando il fazzoletto con le due mani come se volesse strapparlo, e il fazzoletto di seta stropicciato si scuoteva nei suoi angoli ricamati come se fosse mosso dalla brezza tra le sue dita sottili. Sebbene la signora mantenesse il sorriso, in verità era già da un po' che ella piangeva dentro di sé. Quando il professore prese il ventaglio e alzò il capo, il suo viso aveva un'altra espressione. Un'espressione molto confusa, un po' drammatica e innaturale, creata dal sentimento di chi ha visto qualcosa che non doveva vedere e dalla soddisfazione che viene dalla presenza di un sentimento simile. «Comprendo bene il suo stato d'animo, anche se non ho un figlio», disse il professore con voce bassa e commossa, tirando un po' troppo il collo indietro, come se si trovasse davanti a qualcosa di abbagliante. «Grazie, ma ormai la cosa è andata così e dovrei...» Ella alzò lievemente il capo. Sul viso sereno si vedeva ancora un nobile sorriso. Passarono 2 ore. Il professore, dopo un bagno, una cena e un dessert di ciliegie, tornò in veranda sulla sedia di Vimini. La lunga giornata d'estate continuava a diffondere una luce debole e in veranda, dove le porte finestre erano spalancate, non c'era ancora alcun segno del tramonto. In quella luce, appoggiando la testa allo schienale della sedia, incrociando le gambe, quella sinistra sopra la destra, si mise a guardare le frange rosse della lanterna di Gifu. Pur avendo ripreso il libro di Strindberg, non era riuscito a leggere nemmeno una pagina. Ciò tuttavia era abbastanza logico. La sua mente era occupata ancora dal comportamento severo della signora Atsuko Nishiyama. Durante la cena il professore aveva raccontato a sua moglie tutto di quell'incontro, lodando il comportamento della signora come prova di vera cavalleria in una giapponese, e sua moglie, che amava il Giappone e i giapponesi, condivideva il suo sentimento. Egli era contento di aver trovato una tale ascoltatrice in sua moglie. Ora nella sua mente si trovavano fuse logicamente insieme sua moglie, quella signora, e la lanterna di Gifu. A lungo il professore vagò mentalmente in mezzo a loro, con piacere. Ad un tratto si ricordò di un impegno preso con un editore che stava raccogliendo i pareri di varie persone competenti sui principi morali fondamentali da pubblicare col titolo «Ai giovani d'oggi». «Ah, mi servirò dell'avvenimento di questo pomeriggio come materiale per scrivere il mio parere e lo spedirò presto», decise il professore, grattandosi leggermente il capo con la mano con cui fino allora aveva tenuto il libro. Accortosi del libro abbandonato sulle ginocchia, lo aprì alla pagina che stava leggendo prima, servendosi del bigliettino da visita della signora. In quel momento arrivò la serva e accese la lanterna. Egli avrebbe potuto riprendere la lettura anche se i caratteri erano piccoli, ma lasciò cadere con poco interesse il suo sguardo sulla pagina. Era calmo. Strindberg dice: «Nei giorni della mia gioventù si parlava del fazzoletto di un'attrice, la signora Heiberg, che recitava una certa parte con 2 sentimenti contrastanti, manteneva il sorriso sul viso e nello stesso tempo strapazzava il fazzoletto con le mani. Questo io lo chiamo uno schifo». Il professore posò il libro aperto sulle ginocchia. Il bigliettino col nome di Atsuko Nishiyama si trovava sulla pagina sotto i suoi occhi. Ma egli non pensava più alla signora, né a sua moglie, né alla cultura giapponese. Qualcosa di indefinibile cercava di rompere quella serena armonia che si era creata tra di loro. La tecnica della regia disprezzata da Strindberg e il discorso pratico sui principi morali non erano omogenei. Tuttavia, quella suggestione che egli ebbe dal passo che aveva appena finito di leggere aveva qualcosa che disturbava il suo sentimento placato dal bel bagno che si era fatto. La cavalleria giapponese, la recita in maniera cavalleresca Il professore scosse due o tre volte il capo sconsolato, poi guardò fisso la lanterna di Gifu con la sua luce viva e i suoi disegni di erbe autunnali. Elisabetta Piccolomini ha letto Akutagawa Ryunosuke, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce, @rai.it.